5D. Ascolta e rispondi. Hai visto un bel film? Sì, ho visto un bel film. Hai letto il giornale di oggi? Sì, ho letto il giornale di oggi. Hai deciso di partire oggi? Sì, ho deciso di partire oggi. Hai fatto una passeggiata? Sì, ho fatto una passeggiata. Hai detto la verità? Sì, ho detto la verità. Hai tradotto una lettera? Sì, ho tradotto una lettera. Hai corso molto? Sì, ho corso molto. Hai reso i libri in biblioteca? Sì, ho reso i libri in biblioteca. Hai rotto lo specchio? Sì, ho rotto lo specchio. Hai chiuso le finestre? Sì, ho chiuso le finestre.